senatore. Sì, io non faccio. Ok. E cosa devo fare? Ok. Aspetta un attimo. Ehi, a stato così, dentro la tabullata. Cucinando le ragoste, sai. Cosa, Gio Mari? Adesso va bene. Ehi, adesso sta venendo un figlio di noi. Un po' di vecchi. Cosa c'è? Poco fa c'era tuo figlio. Sentito? No, sono sordo, cazzo. Alza la voce. Ha giudito, alzo la vela, tuo figlio in occhi. Oh. E come mai? E cosa stava facendo? Ma ha detto, dalla voce ti ho riconosciuto. Va. Ma cosa c'è, la macchina dei pompieri? No, li ho chiamati Paletta perché c'era il cornicione di dove c'ho la tenda solare, che era mezzo impaccato, che è andato a baciare ne fa la dumbe dumbe su maduro. Guardate, era tutto scoppiato, tutto grebbato, no, il bordo. E allora laggiù chiamate, sono giunti e ne l'hanno cotto in terra, tanto ne l'avvareni, prima che ammazzava a caceduno. Ah, ecco. E ti ha conosciuto la voce, no? Ehi, a me la bandana di là, tu sei nel capo come tanti mai, la Giulia ha inteso, che schiavozzi. E poi glielo ho detto io, ehi, mica fa vedere, uniati con babbo tuyo. Ah, ecco, dove ti ho sentito. Quindi intanto entra, se lo fa vedere, e allora conoscendo pure la voce, conosci già. Già mi conosceva anche di vista, già mi ha picchiato i miei muri. Però non si ricordava al volo così, capito? Ah, ho capito. Bene, tutto a posto, adesso il cornicione. Ehi, l'ha giù fatto vedere un'inera farelli che era accuppiato. Nella legge ci ho bicchiatato, ma vi voglio la cara, io ho provato con un pezzo di ruccio, non andate a me. Ci voleva la cara, ma pure con la scoppa. E lì l'ha rifatto con la scoppa, ma non faceva, veniva male. Se no non l'abbiamo anche chiamato. Prima che ne parlava il cabacca che era uno. E allora ho chiamato a loro. Ehi, ehi, Bene. E anche infatti oggi è di giorno. Ok. È importante che adesso sia tutto a posto, va. Ehi, avanti, domani dovrà stare in tempo popolare, Mauretta, ciucchita lì la rete, ma non c'è niente in massa. Così fa rugato la modella tromba di Riccardo. Ancora a Vinicio. Agli altri mi sono cassato i denti buchi, boh! Atta, boh! Sono la futti nuda a brucchi, già l'hai visto un catramo che sei tutto urenne, chiedi? Se lo farà di burro rimasto in pericolo da ammazzare la gente in verso. Boh, ma c'è niente cosa bisogna di fare? Dai, ci sentiamo dopo, grazie che sto facendo cosa. A dopo, ok. A dopo domani. Non c'è nessuno. Illu. Strano. L'abbiamo recuperato. No. Illu. Aspetta, devo collegare un computer. Collega computer. Ehi, Jacopo, che già arriva collegando? Ah, vai, che non è buono, cos'è col computer? Ci rubenti. Addirittura, 2-1. Luca! Luca, che c'è? Ma tu sei? Illu! È vero se prendi due computer da uno, e che era convenienza allora? Allora, io ho un PC a casa, bravo, ho regalato. Questo PC è nato senza lettore DVD, però c'è tutta la tastiera rotta. Però ieri mi ha dato un monitor, adesso ti mando la foto qua. Un portatile mi. Poi uso la tastiera esterna, funziona benissimo. Va, ti ho mandato la foto. Mandala a me la foto a vedere, bello bene. Luca Frippe, il pomodoro non ti piace, lasciali finire. Praticamente... lo uso qua, va benissimo. tastiera esterna, anche se la tastiera funziona alla sua, però ci mancano un bel di tasti. Ho visto che ci mancano un bel di tasti. Vabbè, una tastiera esterna. USB va bene lo stesso, certo. Cioè, sta vedendo che è venuto a casa a chiedermi dei pezzi di PL e si sta costruendo un'antenna per casa, per il baracchino. Che lui abita vicino a casa mia, in via, la zona lì, tra via Manzoni, quella zona lì. Questa antenna, se non ricordo il nome, si chiama, la Game Master, può essere. La Game Master? La Game Master, bravo. Sì, è il modello che ne ho fatto di quelli, ho fatto anche con la Vittore, sono tutte come la Game Master, dai. Comunque va bene questo computer di lusso, c'è anche l'audio, va benissimo, c'è la musica sassarese, no? È rigarato, c'è la fine rigarato, giù pagato 10 euro, sin cui lo sta giù pagato, perché ce l'hanno buttato perché si è rotto il monitor costa intorno ai 70, quasi 80 euro. Vai tu. Un portatile usato ti esce con quei soldi? No, a me che l'ho pagato, non ho pagato niente. Io ho 5 euro solo speso e basta. Capito? Ricordati che ho due computer da vendere, uno completo e uno solo la torretta. Ma anche l'audio buono, dai, va bene. C'è anche la webcam incorporata, va bene, va bene. E ma funziona con la tastiera separato. Che se ne affutti. Ma l'ho trovata a seconda mano. Tipo 25, 22 euro me la lascia. Io ne ho una piccolina, non ce l'ho. E come, quanto è il computer? Quanto è il portatile? Adesso non ricordo quanto costa. No, la tastiera sua originale, su internet, su eBay l'ho vista. E c'è scritto anche proposta d'acquisto, comunque se non va bene gliela posso rispedire indietro 30 giorni di tempo. Ah, gliela cambia al computer, elimini quella che hai messo provvisoria, no? Sì, però il processore sta soffrendo, non so perché. Perché non è inciudato, adesso sta scendendo, forse poi sta caricando l'hard disk. E se questo qua glielo metti, gli metto un coso, un SSD gira bene come computer. E lo metti a posto, te lo chiedi lì, se no te lo vendi. Ma ci guardo un po' di gioco, gli hai preso il simulo, la basta la gribemmo sanotti. Oh, te l'ho mandata ieri, e tu ne ho salito un tegame qua. Viene rimaniata a mezzodì e viene ancora i ragazzarura, ce l'ho già cucinata, gli ho preso il peperoncino. Cos'è questo rumore? L'elicottero, prendi la partenza. Ho messo in moto, mi sa guardi la terrazza subito a volo. È vero. Ehi, passo la Lucca. Lo senti? Sta scaldando il motore perché era da un bel fermo. Cazzo, buona sta gioca, buona. Beh, da Brugisà, avevamo fatto noi. Beh, da Bizantina. Ma era troppa, caspita. In desipassone non sei uscita. Vabbè, io non ne mangio. Innubida. Come mai non le mangi? Sono allergico. Però a ridotto non sei allergico, no? Hai visto quelle cacche che mi ho mangiato? Polaretto. L'hai visto quanti la mano? 5 centimetri. Alle grandine. Ma tu già non è che ho mangiato di gay. Tu poi lo sai. Io. E che ve ne ha insegnato Solange a mangiare le calecche? Lui e io. Beh, vedo che il processore sta pompando forte. Non mi sono dimenticato di mettergli la pasta di raffreddamento. E vabbè, mi sarei qua a casa, allora mi sono posti in occhi. Lo smonto qua un attimo, sta con la scheda madre. Luca, mi vedi che sono partito? Adesso sto arrivando sopra di Luca, flipper. Luca, mica sono sopra di te, ti scendo il cestino, metti un po' di lumache che porta Luca a flipper. Cazzo, ma guarda, figlio, che ti ha provato con le ciracole da un terrazzo? Eia, e beh, complicate le hai quelle bambine. Ehi, ma devo fare una pausa ogni tanto, grazie. Ti fate il su friggi. Ma dici, dopo di tindismo, senti. Vabbè, grazie, tanto sicuramente tu tra un po' chiudi. Io vado a lavarmi perché sono tutto pieno di peli di cane, l'abbiamo tosata. Se ci sei dopo, un quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora, se no, ciao. No, fra 5 minuti, lo spento. No, è spento. Da 10, da. E chi l'ha tosato? Tu l'hai tosato. Lì voi, bizzi, no io. No, io la tosavo nel terrazzo grande, con la macchinetta. Ma macchinetta non ne ho, la devo comprare, appena faccio la compro, dai, tanto non costa una quarantina di euro su eBay. Se ti compri la mia ce l'ho sempre, mi. E nella Annoramara, non mi ricordo il nome adesso, ce l'ho, l'ho conservata, l'avevo pulita, disinfettata e conservata. Poi te l'avevi pagata? Non me lo ricordo, mi dai 15 euro e te la do, va. Prendami le foto. Aspetta che la prendo. Così la tosiamo bene. Luca, la marca è Roventa. Adesso ti faccio la foto e te la mando. Manda. Io l'ho vista, quella che sto comprando io c'ha il motorino, non è di quella che vibra, così fa, no, non fa così quella che sto comprando io, costa 39,90. Questo è elettrico, c'ha il motorino, ti faccio vedere, aspetta, c'è tutto. Grazie, se come ti sto dicendo io. Vabbè, grazie, tanto fa le foto, io entro a lavarmi, dai. Te sto mandando, mi sono finito. Bobo. Arrivate. Cos'è, grazie, cos'è? Aspetta, Giovanni, che sto mandando una foto a Luca, Manicuno. Luca, arrivate, ci sono. Eia, aspetta. C'è la macchinetta, le forbici, la scatolina dove ci sono i riduttori per il pelo. E la scatola, ci sono gli spazzolini per pulirla, ed è la Roventa. Ti faccio vedere quella che voglio comprare io. Aspetta, questa c'è il motorino però, eh. E beh, te l'ho mandato anche l'ho girata di fianco. Se ti interessa. Ok, ciao Maria, e beh. Ma cos'è, a 2,20 o a 12? A 2,20. C'è la levetta che la puoi regolare. E le forbici, gli spazzolini per pulire la macchinetta e i riduttori per fare un bello. Io sto molto piccolo, se lo vuoi. Se lo vuoi te lo vendo uno io della Ilki. Allora ti faccio un bel bar, non me lo sa crescere. Se ti interessa, Antonè, poi c'ho anche una macchinetta per tagliare la legna a 45 gradi, nuova, anche quella di marca, adesso non mi ricordo la marca, della non mi viene, non me la metto, comunque di marca. cosa me ne faccio, me ne faccio niente, oh. Me ne faccio proprio niente. No, c'è cosa, non mi... Non lo so. Adesso la guarda, sai che tanto è. Sono. Poi una macchina da scrivere. Vintage di quelle, capito? Che si usavano una volta e... E poi c'è un computer di quelli base, capito? Con un bel po' di schede, eccetera, eccetera, e sono pieno di quella roba lì. Tutto va per due notti. Eia! Eia! Aspetta un attimo, Antoni! Luca! Già la vedo, già! E cos'è? Elettrico! Luca! Via, grazie! Ah, è elettrico, è già, è bella. Guardate, questa è elettrica e funziona bene, cosa vuol mio cane. Sì, però se ha il motorino è meglio, che se vibra, brrr, non ne voglio farsi casinussi. Se la mia è silenziosa, è come quella che mi taglio i capelli io. Non si intende in manco, la voi ti indici la sta. Non le fa rumore. C'è a 2.20, mica va di non fa nessun rumore, è silenziosa. Vabbè, a Torella ci sei. Dove ci sono? E beh, il baracchino ritirato te l'ha. No, non ho ritirato niente. Adesso voglio andare a prendere il coso, che mi sembra di pigliare del baracchino, una... aspirastagno. Ah, l'aspirastagno. Non so chi ce l'aveva, forse Luca. Luca Manicomio ce l'ha. Sa che ce ne ho adesso. C'è anche il portatile 40 canali con lo stilo che è lungo un metro e venti. Con le batterie, figurati. E funziona benissimo. Io già ce l'ho un portatile, antico, con l'antenna cannocchiale, però gli avevo predisposto il filo ad attaccarla alla mantova e funziona benissimo. Avevo normalmente si era 40 canali, 23 canali, già l'avevi sentito, e funziona bene, anche se è antico funziona benissimo. Scoppiata, Antoni! Ho detto che io ce l'ho un 23 canali portatile, funziona benissimo. Con 40, vendi con 40, capito? Portatile nero, con il 40 è in pratica, capito? E c'ha il LED, è lungo, mi. Ci sono 10 batterie dentro, infatti ci sono le batterie. Funziona anche bene. Figurati. No, l'altro me l'avevo venduto i 40 canali ed era MFM della Intec. Non lo so se l'avevi visto, forse l'avevi visto tu. L'avevo preso lì salendo vicino a casa tua, alla CBC, quei 40 canali. E già era bello, però se l'attaccate ve l'abbia venduto e non ha mai trattato, ma se l'ha comprato per numero. No, io questo è solo M, capite? Ci ho messo a volte e fatto a volte di vita, non l'ho neanche aumentato, ho lasciato così com'è. Se adesso ci sono le batterie, capito? Perché se lo metto a 15 watt, però è truba come un coso, come un treno truba, ma non me ne frega niente. L'ho lasciato vigilare. No, io c'ho, c'è anche la custodia in pelle, funziona a batteria oppure con l'alimentatore, funziona. Io vabbè l'ho sempre usato con l'alimentatore, una volta solo ho provato con le batterie e poi invece l'ho sempre usato con l'alimentatore e poi avevo fatto uno spezzone, me l'ho fatto io, attaccarlo all'antenna esterna. E sciave, ebbene pure si sente. Già si colo bene, già si colo bene a voi. sono tenuto per quello. L'altro ne avevo uno 40 canali, MFM che non tenne in gomma, montava 6 batterie ma non usciva manco al lucco, usciva. Se no faceva 500 metri, ma questa, con questa me lo fai tranquillamente con Monteoro. E io con quello là, quando a capo l'antennone grande, pigliavo benissimo dappertutto, sentiva dappertutto, anche fuori parlavo, con Sicilia e continente. E invece con l'antenna sua cannocchiale è tipo come tre BMR, intende a cannonno, capito? Ma già funziona bene, ce l'ho sempre conservato, ma ne aggiungava da militari bidi, me li ho conservati gli altri, ne ho solo 2, 3, 4 furi. Ho capito, capito, già va bene, già va bene. Avanti Luca. E mi sa che è andata a lavarsi. Ho capito. Mi sembra che sia andata a farsi la doccia. Ah, vabbè, allora già non c'è problema. Vabbè, dai, adesso chiudo, dai, che qua me ne devo picchiare un po' di cosa. Ci sentiamo alla prossima, torna a domani se coincide. Ciao, ciao a chi è in ascolto. Ok. Ciao, ciao, grazie, ci sentiamo. Ciao, grazie, mi sto facendo la barba adesso, ciao, a domani. Ciao, ciao. Fai la pappa, fai la pappa.